La mia buona mamma amò il papà che con l'amore cantava serenata al suo balcone. Invece adoro un ragazzone tutto ardore che sa giocare al gioco del pallone. Lui mi vuol bene, non me lo sa dire, ma se m'abbraccia me lo fa capire. Il mio amore è centro attacco, nelle gambe non è fiacco, non è poetico sentimentale, ma se mi dà una stretta mi fa male. Il mio amore è centro attacco, mai mi capita uno spacco, ma la città si fa ogni dì, e se vedesse ciò dei muscoli così, non è un bel imbusto, né un costante rubacuor, si fischia della riga i pantaloni. È un ragazzo pieno di salute e di vigor, e a scuola non mai tra gli sgorboni. Non è davvero un posto di dottrina, ma se vi mollo un pugno si rovina. Il mio amore è centro attacco, nelle gambe non è fiacco, non è poetico sentimentale, ma se mi dà una stretta mi fa male. Il mio amore è centro attacco, mai gli capita uno smacco, ma la ginnastica ogni dì. E se vedeste, sa dei muscoli così.